Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis, bentornati a Smart City, la città intelligente. Bentornata Chiara Albicocco, che era qui con noi anche ieri sera. Ciao sì, Chiara. Ciao Maurizio, buonasera. Allora, continuiamo questa nostra discussione sul car sharing. Ieri abbiamo fatto un po' il punto sulla situazione italiana. È venuto fuori, tra le altre cose, che l'Italia sta affrontando bene, nel senso, i numeri magari non sono altissimi ancora adesso, il numero di automobili presenti e disponibili per questo servizio, che è una sorta di affitto a tempo delle automobili. Sì. Però ci siamo organizzati bene, nel senso che un utente che oggi è abbonato a questo servizio può prendere un'auto in car sharing a Milano, andare in stazione, poi da lì prendere un treno, sì, scendere a Bologna, prendere un'altra auto in car sharing con la stessa smart card, quindi una situazione niente male, direi. È tornato a trovarci anche l'ingegnere Marco Mastretta, direttore di ICS, iniziativa car sharing del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Buonasera Mastretta. Buonasera. Allora, con lei ci eravamo ripromessi questa sera di fare il punto invece su una serie così di iniziative sparse in giro per l'Europa, vero Chiara? Sì, realtà europee che in qualche modo ricalcano quella italiana e in alcuni casi però sono più capillari e un pochino più evolute. Da dove partiamo? Mastretta, da dove partiamo? Forse il caso più emblematico è quello svizzero, i nostri vicini. Beh sì, la Svizzera è stata sicuramente la culla del car sharing e in Svizzera si è diffuso in maniera particolarmente significativa perché ha visto da subito l'affermarsi di un operatore solo, quindi che ha potuto operare in maniera unitaria su tutto il territorio. È Mobility in Svizzera. La Svizzera è sicuramente la nazione, il caso che ha la maggiore densità. In città come Zurigo, per esempio, che è forse quella che vede il maggior numero di utenti, addirittura la percentuale di utenti del car sharing è quasi del 2% della popolazione, addirittura, quindi 2% della popolazione ha in tasca la card del car sharing, ma soprattutto il tratto distintivo che è un po' unico forse in tutta Europa della Svizzera è la capillarità del servizio, poiché tutti i centri che hanno più di 5.000 abitanti in Svizzera... Beh, quindi anche quelli un po' più piccoli, che in Italia siamo pieni, diciamo. Sì, appunto, noi forse siamo troppo pieni, per poterlo permettere. Hanno il servizio di car sharing. Questo grazie anche alla qualità del servizio di trasporto pubblico, che permette, fa sì, diciamo, che gli spostamenti di tipo sistematico per andare al lavoro possono essere soddisfatti dal trasporto pubblico anche nei centri minori. Cosa che magari in altre realtà è un po' più problematico. Anzi, mi sembra di capire che è stato proprio verificato un rapporto di mutua complementarietà fra il car sharing e altre forme di trasporto pubblico, per cui l'uno incentiva l'altro in un certo senso, certo. Vero? Assolutamente sì, anzi è uno dei pilastri proprio del car sharing, poiché il car sharing invita le persone a lasciare l'auto e ad utilizzarla in maniera molto ragionata. Cioè soprattutto per gli spostamenti che noi chiamiamo di tipo non sistematico, quindi non per andare al lavoro, sposta una buona parte di mobilità dall'utilizzo dell'auto privata all'utilizzo del mezzo pubblico, generando una maggiore razionalità a livello sociale ed un notevole risparmio a livello privato. Privato. Però, e direi anche di superficie cittadina, perché se noi pensiamo a una città come Milano, la gran parte della superficie è dedicata, quella pubblica, è dedicata alle automobili, al loro parcheggio, alla loro circolazione e non agli esseri umani. Ecco, senta, andiamo in un altro paese. Andiamo a Brema, in Germania, anche lì sono abbastanza eccellenti. A Brema sì, che subito dopo la Svizzera è stata una delle prime città ad attivare il servizio di car sharing. A Brema, oltre alla significatività dal punto di vista sicuramente numerico, c'è da sottolineare il fatto che la città, il comune, che in questo caso è un po' più che un comune, perché voi sapete è una città indipendente, tra virgolette, quindi ha proprio un suo piccolo parlamento, ha sempre sponsorizzato molto, ha sempre appoggiato la diffusione del car sharing da molti anni e sono arrivate ad una integrazione completa del sistema di trasporto pubblico in tutte le sue forme, quindi esiste una mobility card che permette l'accesso a tutte le forme di mobilità pubbliche, incluso il car sharing, bike sharing e così via, e quindi offre davvero, come dicevamo prima, un'alternativa significativa al possesso dell'auto e all'uso dell'auto soprattutto nella realtà urbana. Chiude un po' tutte le caratteristiche caratteristiche che qui a Smart City ogni giorno snoccioliamo. Cerchiamo di raccontare. Se ci spostiamo un po' più a nord-est, sì, c'è un bel modello che è un po' diverso da quello che abbiamo descritto finora. Ad Amsterdam, a Maastricht, c'è un modello che si rifà un po' al modello americano, che è un po' diverso da quello italiano, svizzero e tedesco. Esattamente. Amsterdam sta partendo, non è ancora, è proprio il sintomo di un fenomeno molto nuovo che si sta affacciando sul mercato del car sharing, che è l'interesse da parte delle case automobilistiche. In origine il car sharing è nato dall'iniziativa privata, prima addirittura come Svizzera in Germania, quindi semplici cittadini che ragionavano in una maniera più razionale, o dal lavoro dello Stato, comunque della pubblica amministrazione e come in Italia. Ultimamente si stanno affacciando su questo mercato le case automobilistiche, che vedono un potenziale sbocco della propria produzione anche dei servizi di car sharing, ma vedono anche un mercato del servizio in sé. Il modello è differente da quello applicato in Europa. Consiste fondamentalmente nel mettere un numero molto elevato di auto. Ad Amsterdam stanno partendo ad esempio subito con 300 auto, che non necessariamente devono essere prelevate da un parcheggio, ma sono essere prelevate da un parcheggio dedicato, specifico, un parcheggio, no? Dedicato, esattamente. Possono essere prelevate dal punto dove si trovano e quindi rilasciate in un qualunque parcheggio pubblico all'interno di un'area della città, di un'area centrale, e possono essere prelevate, anzi devono essere prelevate senza prenotazione, quindi alla carte, sulla disponibilità del momento. È un tipo di mobilità un po' diverso da quella che serviamo noi, perché serve soprattutto le mobilità di piccolo raggio e tipicamente solo o di tipo urbano, ed è il frutto dell'iniziativa di una casa automobilistica, in questo caso della Daimler, che usa le Smart, e questa è un po' una novità nel panorama del car sharing. Grazie ingegner Marco Maastretta. Grazie a tutti voi, buonasera. Grazie anche a te Chiara. Grazie, alla prossima. È tutto, a lunedì.